Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Scusate, caro barone, disse Montecristo, ma uno dei miei migliori amici, l'abate Busoni, è giunto a Parigi. Era molto tempo che non ci vedevamo e non ho avuto il coraggio di congedarlo subito. Spero perciò che mi scuserete di avervi fatto attendere. Come? Disse Danglars. È una cosa giusta. Sono io che ho scelto male il momento per cui me ne vado. Niente affatto, niente affatto, sedetevi anzi. Ma buon Dio, ma che c'è? Voi avete un aspetto molto preoccupato. In verità mi spaventate. Un capitalista afflitto è come una cometa. Presagisce sempre qualche grave disgrazia. Mio caro signore, la sfortuna mi perseguita da qualche giorno e non ricevo che cattive notizie. Mio Dio, avete forse subito qualche altra perdita in borsa? No, no, almeno per qualche giorno. Si tratta semplicemente di un fallimento a Trieste. Ma già che stiamo parlando d'affari, soggiunse, ditemi dunque ciò che posso fare per il signor Cavalcanti. Ma dategli del denaro, se ha un credito che vi sembri sicuro. Voi avete fiducia in questi Cavalcanti? Sentite, lo conosco appena. Credo di averlo visto 3 volte in vita mia. Ciò che so l'ho saputo dall'abate Busoni in persona. Mi parlava, questa mattina, dei suoi progetti su suo figlio e mi lasciava intuire che, stanco di vedere infruttuosi dei capitali considerevoli in Italia, paese morto, vorrebbe trovare il mezzo, sia in Francia sia in Inghilterra, di far fruttare i suoi milioni. Ma notate bene che quantunque io abbia personalmente la più grande fiducia nell'abate Busoni, non rispondo di nulla. Non importa, grazie del cliente che mi avete procurato. Questo è un gran bel nome da iscrivere nei miei registri. A proposito, e questa è una semplice curiosità, quando questi personaggi danno moglie ai loro figli, assegnano loro una dote? Ah, mio Dio, secondo le circostanze. Ammettiamo che Andrea si sposi secondo i desideri di suo padre. Allora gli assegnerà forse 1, 2, 3 milioni. Se fosse con la figlia di un banchiere, per esempio, investirebbe dei capitali nella banca del suocero di suo figlio. Ma supponete che la nuora non gli piaccia? Buonanotte! Cavalcanti padre chiuderebbe a doppia mandata la cassaforte. Ed ecco il signor Andrea obbligato a vivere come un figlio di papà parigino, barando alle carte o giocando con dadi truccati. Ma perché mi fate tutte queste domande, caro signor Danglars? Avete forse intenzione di ammogliare Andrea? Non mi sembrerebbe un cattivo affare. E io sono un affarista. Ma non con la signorina Danglars, presumo. Fareste scannare questo povero Andrea da Albert? Albert, disse Danglars alzando le spalle. Egli si cura assai poco di mia figlia. Ma io non credo, disse Montecristo, che i Morcerf siano da meno dei Cavalcanti. I Morcerf? Sentite, mio caro conte, riprese Danglars. Siete un galantuomo, non è vero? Lo credo. Il signor di Morcerf è mio amico, o piuttosto una mia conoscenza da 30 anni. Ebbene, quando io ero semplice commesso, Morcerf era semplice pescatore. E allora si chiamava? Fernand. E poi? Fernand Mondego. Ne siete sicuro? Perbacco, con tutto il pesce che mi ha venduto. Allora, perché volevate dargli vostra figlia? Perché Fernand e Danglars, essendo 2 nuovi ricchi diventati nobili, in fondo si equivalevano. A parte alcune cose che si sono dette di lui e che non si sono mai potute dire di me. Sì, sì, ora capisco. Ciò che dite mi rinfresca la memoria a proposito del nome di Fernand Mondego. Ho sentito questo nome in Grecia. A proposito dell'affare di Ali Pascià? Precisamente. Ecco il mistero, riprese Danglars. E vi confesso che avrei pagato molto per scoprirlo. Non era difficile, se ne aveste avuto voglia. E in che modo? Senza dubbio avrete qualche corrispondente in Grecia. Ne ho dappertutto. Ebbene, scrivete al vostro corrispondente di Giannina e domandategli quale parte abbia avuto nella catastrofe di Alite Belin un francese chiamato Fernand. Avete ragione, gridò Danglars alzandosi con vivacità. Scriverò oggi stesso. Thank you. Vi era folla nell'anticamera del signore di Villefort, ma la signora Danglars non ebbe neppure bisogno di pronunciare il suo nome. Appena arrivata, un usciere si alzò, si avvicinò a lei, le chiese se fosse la persona a cui il procuratore del re aveva dato appuntamento e alla sua risposta affermativa la condusse attraverso un corridoio riservato nell'ufficio del signor di Villefort. «Grazie, signora», disse il magistrato. «Grazie della vostra puntualità». E le offrì una sedia che la signora Danglars accettò perché il cuore le batteva così forte che si sentiva soffocare. «Ecco», disse il procuratore sedendo e facendo ruotare a semicerchio la sua sedia in modo da poter guardare in viso la signora Danglars. «Ecco che dopo lungo tempo, signora, ho la fortuna di parlare da solo con voi e con mio sommo dispiacere ci ritroviamo per intavolare una conversazione molto dolorosa». «Mio Dio, mi spaventate! Ma non importa, parlate, vi ascolto». «Sapete che cosa accadde quella notte dolorosa, in cui voi eravate in un'angoscia mortale nel vostro letto, in quella camera di damasco rosso, mentre io, non meno annientato di voi, aspettavo il vostro parto? E il bambino nacque, mi fu consegnato esanime, senza respiro, senza voce, e lo credemmo morto». La signora Danglars fece un movimento rapido, come se avesse voluto balzare dalla sedia. Ma Villefort la fermò, giungendo le mani come per implorarne l'attenzione. «Lo credemmo morto», ripeté. «Io lo misi in mancanza di una bara in una cassetta, scesi in giardino, scavai una fossa e lo seppellì in fretta. Avevo appena terminato di coprirlo di terra che il braccio del corso si stese verso di me. Vidi un'ombra drizzarsi e un lampo sfolgorare. Sentì un dolore, volli gridare. Un brivido mi percorse tutte le membra e mi serrò la gola. Caddi morente e mi credetti ferito a morte. Non dimenticherò mai il vostro sublime coraggio quando, ritornato in me, mi trascinai moribondo fino ai piedi della scala dove, moribonda voi pure, mi veniste incontro». Era necessario mantenere il silenzio sulla terribile catastrofe. «Voi aveste il coraggio di tornare a casa, sostenuta dalla nutrice. Un duello fu il pretesto della mia ferita. Contro ogni aspettativa il silenzio fu mantenuto e, trasportato a Versailles, per 3 mesi lottai con la morte. La mia convalescenza durò 6 mesi. Non sentivo più parlare di voi. Non osavo informarmi di ciò che vi era accaduto. Quando ritornai a Parigi, seppi che, vedova del signore di Nargonne, avevate sposato il signor Danglars. A che cosa avevo sempre pensato dal momento che ripresi conoscenza? Incessantemente alla stessa cosa, a quel cadavere di neonato che ogni notte nei miei sogni usciva dal seno della terra e si fermava al di sopra della fossa, minacciandomi con lo sguardo e con il gesto. Perciò, appena tornato a Parigi, mi informai. Da quando noi l'avevamo lasciata, la casa non era stata abitata da nessuno. Partii al galoppo per Auteuil. Là, tutto ciò che mi ripetevo da un anno nella continua disperazione si presentò alla mia mente più minaccioso che mai. Quel corso, che mi aveva giurato vendetta, che mi aveva seguito da Nîmes a Parigi, era dunque stato quel corso che, nascosto nel giardino, mi aveva colpito. Mi aveva certamente visto scavare la fossa e seppellire il neonato, e poteva giungere a conoscervi. Forse vi conosceva già. Non vi avrebbe un giorno fatto pagare il segreto di quel terribile fatto? Non sarebbe stata questa per lui una ben dolce vendetta quando avesse saputo che io non ero morto per la sua pugnalata? Era dunque urgente che, prima di tutto e a qualunque costo, facessi sparire le tracce di quel passato, che distruggessi le eventuali prove materiali. L'erba durante l'estate, continuò Villefort, era cresciuta moltissimo in quel luogo. E giunto l'autunno nessuno era venuto a tagliarla. Però un luogo meno erboso attirò la mia attenzione. Evidentemente era là che avevo scavato la fossa. Mi misi all'opera. Era finalmente giunto il momento che aspettavo da più di un anno. Ma speravo, lavoravo, esaminavo ogni zolla di terra, credendo di sentire della resistenza all'estremità della mia zappa. Nulla. Eppure avevo fatto una buca due volte più grande della prima. La cassetta non c'era più, mormorò la signora Danglars soffocata dall'emozione. Non crediate che mi sia limitata a quel tentativo, continuò Villefort. Scavai tutto attorno. Pensai che l'assassino dissotterrata la cassetta, credendo che fosse un tesoro, avesse voluto impadronirsene e l'avesse portata via. Poi, accorgendosi dell'errore, avesse scavato una nuova fossa e ve l'avesse deposta. Niente. Oh, gridò la signora Danglars. C'era da diventar pazzi. Lo sperai per un momento, disse Villefort, ma non ebbi questa fortuna. Però raccogliendo le mie forze e le mie idee, perché quell'uomo avrebbe portato via quel cadavere? Mi domandai. Ma lo avete detto voi per avere una prova? Oh, no, signora, non poteva essere per questo. Non si conserva un cadavere per un anno. Lo si consegna a un magistrato e si fa una deposizione. Non era accaduto niente di tutto ciò. Ebbene, allora? Domandò Hermine palpitante. Allora? Vi è qualche cosa di più terribile, di più fatale, di più spaventoso per noi. Che il bambino fosse ancora vivo e che l'assassino lo abbia salvato. La signora Danglars mandò un grido terribile. Mio figlio vivo! Avete seppellito vivo mio figlio, signora! Il mio bambino! Disse soffocando i singhiozzi con il fazzoletto. Capirete che se la cosa è così, disse Villefort, noi siamo perduti. Questo ragazzo vive. E qualcuno sa che egli vive. Qualcuno è al corrente del nostro segreto, e poiché Montecristo parla di un neonato disseppellito là dove questo neonato non c'era, è lui certamente in possesso di questo segreto. Dio, Dio giusto, Dio vendicatore, mormorò la signora Danglars. Villefort non rispose che con una specie di ruggito. Ma questo bambino, signore, riprese la madre, ostinata. Ah, quanto l'ho cercato, rispose Villefort, torcendosi le braccia. Quante volte l'ho chiamato nelle mie lunghe notti insonni. Finalmente, un giorno, che per la centesima volta riprendevo la zappa, domandai a me stesso per la centesima volta ciò che quel corso avesse potuto fare del bambino. Pensai che un neonato in paccia, un fuggitivo, e che forse accorgendosi che era ancora vivo, lo aveva gettato nel fiume. Ah, impossibile! Gridò la signora Danglars. Si assassina un uomo per vendetta, ma non si annega a sangue freddo un bambino. Forse, pensai, continuò Villefort, lo avrà portato all'ospizio dei trovatelli. Oh, oh sì, sì! Gridò la baronessa. Mio figlio è là, signore! Corsi all'ospizio e appresi che quella notte stessa, la notte del 20 settembre, un neonato era stato deposto nella ruota, avvolto in una mezza salvietta di tela fine lacerata intenzionalmente. Questa metà di salvietta portava la metà di una corona da barone e la lettera H. Era quella! Era quella! Esclamò la signora Danglars. Tutta la mia biancheria era marcata in tal modo. Oh, grazie, grazie, mio Dio! Mio figlio non è morto. No, non è morto. E voi me lo dite? Mi dite questo senza temere di farmi morire di gioia, signore? Dov'è? Dov'è mio figlio? Villefort alzò le spalle. Lo so io, forse? Rispose. Circa sei mesi dopo, una donna con l'altra metà della salvietta si era presentata a reclamare il bambino. Questa donna aveva dato tutte le garanzie richieste dalla legge, per cui il bambino le fu consegnato. Ma dovevate informarvi di questa donna, rintracciarla? E di che credete che mi sia occupato, signora? Le sue tracce furono ritrovate a Chalon, ma a Chalon si sono perse. Perse? Sì, perse. Perse per sempre. Ed è tutto qui? Vi siete limitato a questo? Non ho mai cessato di indagare, di informarmi, ma senza nessun risultato. Ma... riprese la signora Danglars. Il conte di Montecristo non sa niente. Perché, altrimenti, ambirebbe alla nostra amicizia? La malvagità degli uomini è profonda, disse Villefort. È più profonda della bontà di Dio. Avete osservato gli occhi di quell'uomo mentre ci parlava? L'avete mai osservato attentamente? Beh, è un uomo strano. Ecco tutto. Prima di 8 giorni saprò chi è questo signor di Montecristo, da dove viene e per quale ragione parla in nostra presenza di neonati disseppelliti nel suo giardino. Villefort pronunciò queste parole con un accento che avrebbe fatto rabbrividire il conte, se avesse potuto sentirlo. Quindi strinse la mano alla baronessa, che esitava a dargliela, e la ricondusse fino alla porta. Erano le più calde giornate del mese di luglio, allorché giunse quel sabato in cui doveva aver luogo il ballo del signor di Morcerf. Nel giardino si scorgevano in quel momento una decina di servitori, ai quali la padrona di casa aveva dato l'ordine di preparare la cena. Nell'istante in cui la contessa di Morcerf rientrava nelle sale, queste cominciavano a riempirsi di invitati attratti dalla squisita ospitalità della padrona di casa. L'abbiamo già detto, fosse per fascino fittizio o per natura, il conte attirava l'attenzione generale in qualunque luogo si presentasse. Non era il suo abito nero, irreprensibile nel taglio, ma semplice e senza decorazioni, né il gilet bianco senza ricami, né il calzone che cadeva sul piede di forma delicata ad attirare l'attenzione, ma facevano sì che tutti gli occhi si fissassero su di lui. Il suo colorito pallido, i capelli neri ondulati, il viso calmo e regolare, lo sguardo profondo e malinconico, la bocca disegnata con finezza meravigliosa e che di tanto in tanto assumeva un'espressione di severo disdegno. Vi potevano essere uomini più belli, ma ci sia permessa questa espressione, non ve ne potevano essere di più interessanti. Tutto nel conte voleva dire qualche cosa e aveva un suo valore. L'abitudine del pensare aveva dato ai lineamenti e all'espressione del viso e al più insignificante dei suoi gesti espressività e fermezza incomparabili. E poi la società parigina è così strana che forse non avrebbe fatto attenzione a tutto ciò se non ci fosse stata una misteriosa storia di immense ricchezze. Egli entrò nella sala sotto gli sguardi di tutti e, scambiando brevi saluti, giunse fino alla signora di Morcerf che, in piedi davanti al caminetto ornato di fiori, lo aveva visto comparire in uno specchio posto di fronte alla porta e si era preparata a riceverlo. Dunque si voltò verso di lui con un sorriso composto nello stesso momento in cui egli si chinava davanti a lei. Senza dubbio, ella pensò che il conte volesse parlarle E dal canto suo il conte credette che sarebbe stata lei a rivolgergli la parola, ma tutte e due restarono muti, tanto sembrava loro indegna una frase banale. E dopo essersi scambiati un saluto, Montecristo si diresse verso Albert, che gli veniva incontro tendendogli la mano. Frattanto, il caldo cominciava a divenire opprimente. I camerieri circolavano per le sale con vassoi carichi di frutta e di gelati. Montecristo si asciugò con il fazzoletto il viso bagnato di sudore, ma quando il vassoio gli passò davanti indietreggiò e non prese nulla. La signora di Morcerf non lo perdeva di vista, vide passare il vassoio senza che egli lo toccasse, colse persino il movimento che fece nello scostarsi. «Albert», disse, «avete osservato una cosa? Quale, madre mia? Che il conte non ha mai voluto accettare un pranzo dal signor di Morcerf?» «Sì, ma ha accettato una colazione da me, e con questa colazione ha fatto il suo ingresso in società. Da voi non è da vostro padre», mormorò Mercedes. «Lo sto osservando da quando è entrato». «E allora?» «Non ha ancora preso nulla. Tornate da lui e al primo vassoio che passa insistete». Albert baciò la mano della madre e andò accanto al conte. Passò un altro vassoio e Albert prese un gelato e glielo porse, ma Montecristo rifiutò ostinatamente. «È vero», disse Albert alla madre. «Ha rifiutato. Si lamentava di sentirsi soffocare. Domandava anzi perché, essendo già state aperte le finestre, non si aprivano pure le persiane». «Infatti», disse Mercedes, «questo è il mezzo per assicurarmi se tale astinenza è voluta». E uscì dalla sala. Un momento dopo le persiane si aprirono e attraverso i gelsomini e le clematidi che ornavano le finestre si poté vedere tutto il giardino illuminato dalle lanterne e la cena imbandita sotto la tenda. Ballerini e ballerine, giocatori e conversatori mandarono un grido di gioia e tutti respiravano con sollievo l'aria che entrava in quantità. Nello stesso momento ricomparve Mercedes e, voltandosi verso Montecristo, disse: «Signor conte, fatemi l'onore di offrirmi il braccio». Il conte quasi vacillò a queste semplici parole. Poi guardò un momento Mercedes, un momento breve come un lampo, che tuttavia sembrò alla contessa lungo quanto un secolo, tanto lo sguardo di Montecristo era carico di significato. Egli offrì il braccio alla contessa, che vi si appoggiò, ed entrambi scesero le scalinate esterne adorne di rododendri e camelie. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it